Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Nel mio lavoro non chiedo mai il perché, le domande che faccio riguardano il quando, il dove qualche volta, ma sempre il quanto. With every waking breath I breathe, I see what life has dealt to me. With every sadness I deny, feel a chance inside me die. Give me a taste of something new, to touch, to hold, to pull me through. Send me a guiding light that shines across this darkened life of mine. Some soul in me. Una sospensione di 15 giorni. A quanto ho capito dovrebbero essere 35 parlamentari puniti fino a 15 giorni di sospensione dall'aula. Come al solito, poi alla fine chi si prende la pensione è anche colui che dice di aver difeso la democrazia e di aver difeso l'indipendenza dei politici. Chi combatte contro le pensioni alla fine viene punito con anche 15 giorni di sospensione. Ora le pensioni le prenderete anche voi? Le pensioni le prenderemo anche noi, le pensioni noi abbiamo chiesto di abolirle e dovranno essere abolite. Se non le aboliscono adesso, le aboliremo noi al governo del paese anche retroattivamente, non si preoccupi. Noi non ci arrendiamo, cioè avranno vinto una battaglia sulle pensioni dei parlamentari, ma non hanno vinto ancora la guerra. Adesso troveremo altri. Ah, mamma mia, questa storia delle pensioni, dei vitalizi, che è iniziato un po'. Ma forse anche un po' a stancare, almeno sui giornali ogni tanto ci sono queste campagne che tornano. Adesso si torna a parlare degli stipendi, va a ondate, no? A ondate gli stipendi dei parlamentari. E vabbè. Onestà, allora, onestà. Eh? Onestà. Mi fa venire un po' l'orticaria. Vabbè, presidente De Luca, tra l'altro attenzione, perché anche ieri hai combinato un mezzo pasticcio con un fuori onda. Non sono falsi come Giuda. Sono falsi come Giuda. Lascia perdere, presidente De Luca. Noi qua stiamo mettendo a punto la conduzione 4.0 tua a 24 mattino, ma devi stare attento ai fuori onda. Pubblicità gratuita. Attenzione ai fuori onda, che ti lascia andare a giudizi, in questo caso sul sindaco di Napoli De Magistris, e poi si arrabbia. I voti guadagnati. Vabbè, allora è tutto fatto per strategia elettorale, allora diciamolo. Signori, è da un po' che non dico le temperature, eh? Rino da Salerno, per l'appunto, ci fa sapere che ci sono 11 gradi, mentre ad Aranova Fiumicino 10 gradi. Oggi a Milano c'erano 14 gradi, vi giuro, 14 gradi. Ieri a mezzogiorno c'erano 27 gradi a Milano. Ci sono 24 gradi anche a Columbus, Ohio, da dove ci ascolta come sempre Matteo. C'è anche sabato, lo so, però oggi è venerdì, dai. Salutiamo in riva al fiume Piave 7 gradi, Nino, mentre nella Valle del Lagno, Alto Vicentino, ci sono 9 gradi. 12 gradi a Verona, lo ridico Verona perché uno dei miei ospiti lo sappia, 12 gradi a Verona, la sua città, mentre 11 gradi a Colle Brianza. Milan meno 20 dalla Juve, mamma mia, che noia, che noia. A Codigoro ci sono 10 gradi. Sono Luciano Ligabue e anch'io la mattina ascolto Alessandro Milan. Vacca è boia. Venerdì. Ebbene sì. Voglio salutare subito il condirettore della verità, Massimo De Manzoni di Verona. Massimo, hai capito quanti gradi ci sono nella tua Verona? 12 gradi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, ben trovato. Caro Massimo, ti presento un graditissimo ritorno dopo un po' di tempo. Siamo riusciti a sbrandarlo, anche se è juventino. Chicco Testa, come stai? Buongiorno, buongiorno. Guarda che io mi alzo sempre molto presto. Eh? Ah, eccola là, subito la polemica. È juventino, d'altronde, è juventino. Deve subito dare la stilettata. Ti dico subito che Luigi De Magistris, in un'intervista spericolata, non spettacolare, al Fatto Quotidiano, ha detto che Higuain per lui è come Salvini, che puoi capire che per De Magistris... Scusami, è venuta la tosse per questa roba. Esatto. Nelle vette del pensiero occidentale. Ecco, dopo Nietzsche aspettavamo un pensatore di questa portata. Vabbè, adesso ti ha toccato Higuain. Ha detto, lo accoglieremo subissandolo di fischi. È come Higuain è come Salvini, traditore. Il problema è molto semplice. Che a Higuain... Sì. Fanno quello che fa alla mia automobile la benzina super, capito? Quindi ecco. No, eviteresti, vabbè. Caro Massimo De Manzoni, sono un'intervista spericolata di De Magistris. Higuain è come... Beh, una vita spericolata. Dici, no? Una vita spericolata. Signori, allora dai, apriamo il Parlamento, perché qua non lo so. Allora ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene. Ma... Forza, ci sono tante cose di cui parlare, una magari insomma è un po' pesante a quest'ora, ma... mi interessa perché la verità, voi satanassi della verità, oggi siete gli unici che insomma mettete un po' in dubbio questa storia dei dazi con cui tutti i giornali aprono, e cioè Trump avrebbe minacciato, questo secondo il Wall Street Journal per la verità, cioè minaccerebbe dei dazi sui prodotti italiani, una cosa che sarebbe abbastanza un disastro per i nostri prodotti, per il nostro export. La Vespa, i formaggi, un po' tutto. Perché Massimo, cosa c'è che non va in questa notizia? Allora, intanto è un'indiscrezione, non è una notizia. Cioè, è un'indiscrezione del Wall Street Journal che dice che starebbero meditando di applicare dei dazi. Sapete da quanto va avanti questa storia? Da un bel po'. Noi abbiamo un contenzioso, noi come Europa... gli Stati Uniti con l'Europa, è un contenzioso relativo all'importazione delle carni ormai dal 2008, sì. Una cosa del genere, e periodicamente vengono fuori queste cose. Questa anzi, cosa. Addirittura gli dazi erano già stati messi e li aveva messi Obama, solo che poi in chiave TTP, trattative che venivano fatte, sono stati sospesi. Semplicemente ieri un giornale è venuto fuori dicendo che l'amministrazione americana sta pensando di rimettere. Ma sai cos'è? Cioè, la questione è che Trump già è protezionista di suo. Appunto, già Trump è uno che queste cose le ha annunciate. E allora. Però, peraltro, la cosa interessante, e lo dice anche lo stesso Farinetti in un'intervista su Repubblica di Italy. La cosa interessante è che in realtà sulle carni, Trump, l'America ha ragione. Nel senso che l'Europa si è impegnata a importare 45 milioni di tonnellate di carne, che quelle senza ormoni, che addirittura pare che abbiano fatto degli allevamenti senza ormoni per noi, e noi non abbiamo mai mantenuto questa promessa. Quindi peraltro, vabbè. La cosa ancora più comica, perché tra l'altro abbiamo tirato fuori prodotti italiani che italiani non sono, perché... ormai abbiamo ceduto tutto, per cui sì. La San Pellegrino appartiene alla Nestlé e quindi non colpirebbero l'Italia. Ma la cosa comica in assoluto è che quelli che stanno strillando sono gli europei che stanno esattamente minacciando di mettere dazi contro la Gran Bretagna perché si è permesso di uscire dall'Unione Europea. Per cui mi sembra veramente tutto un teatro. Un impazzimento. Europeo. Però il tema è interessante. Non so, Chicco Testa, tu che osservi, ci deve far paura Trump o la politica di dazi di Trump? Certo, dei dazi sarebbero disastrosi, non è che non possiamo negare che... No, adesso quanto queste notizie si trasformeranno in fatti, ha ragione il collega, è da vedere, no? Forse c'è un po' di esagerazione. Detto questo, c'è una specie così di inno generale al ritorno dei dazi che è veramente pericolosissimo. C'è una vecchia frase che dice dove non arriva la libertà di commercio arrivano le cannoniere. No, è vero, non siamo più nell'Ottocento, ma se entrassimo in una guerra commerciale, sì. A parte che i dazi poi sono a somma zero, no? Perché io metto il dazio sulla Vespa, cioè Trump mette il dazio sulla Vespa, diciamo per dire, e noi mettiamo il dazio sulle automobili americane, alla fine paga il consumatore che si trova solo con dei prezzi sempre più alti. E poi queste guerre commerciali innestano delle tensioni tra i paesi che possono diventare veramente molto pericolose, no? E rimpiangeremo adesso tutti questi movimenti che ci sono stati contro gli accordi commerciali, quello tra l'Europa e gli Stati Uniti, tra gli Stati Uniti e il Canada, tra gli Stati Uniti e l'area del Pacifico, eccetera, eccetera. La libertà di commercio è una delle conquiste più grandi della civiltà del questo secolo, questo sì. Per carità, adesso vedremo appunto se è una minaccia, se è una cosa che si trascina, però eccetera. Però generale, sarebbe un disastro, questo contro sì. Contro il latte dei paesi del nord, contro i formaggi francesi, ho capito, Ecco, vedi, parto subito. Una roba che arriva da tutto il mondo e che costa poco, va bene? Esatto. Poi sì, dopodiché ci sono anche dei calciatori del Milan. Anche qualche cos'è calcio? Cosa c'hai contro il calciatore del Milan? No, non c'ho nulla. Oddio, vuole Donnarumma! Oddio, che arroganti questi juventini che si vogliono prendere anche Donnarumma! Che vergogna! Mamma mia. Che feeling che si è stabilito tra Buffon e Donnarumma! Che arroganti, che arroganti! Buffon sta lavorando ai fianchi. Massimo, fai una bella inchiesta sull'arroganza della Juve. Vincono, sono arroganti, vogliono vincere, stravincere, rivincere, convincere, rubare i giocatori agli altri più forti e basta. Cioè, vabbè. Mettete dei bei dazi. Mettiamo i dazi, mettiamo un bel dazio su Donnarumma. Non sono sempre negativi, però, perché poi ne parliamo in termini così generici. Perché non sono sempre negativi? Cioè, io non... Perché esistono anche concorrenza sleale, esistono dumping, esistono situazioni in cui intere filiere commerciali vengono distrutte da prodotti importati dall'estero se non c'è una certo tipo di protezione. Anche l'abbassamento di qualità. E c'è un abbassamento di qualità importante, però non è che si possa parlarne solo in termini negativi. Sì, però voglio dire, mettere il dazio sulla Vespa, sul formaggio Roquefort. Su Donnarumma sì, sono d'accordo. Un bel dazione del 40% sull'acquisto di Donnarumma. Se un prodotto è nocivo, non si vieta, non si mette un dazio. Perché se metti un dazio è come se tu riconoscessi che non è nocivo. Ma non è questione solo di nocivo, è questione anche di dannoso dal punto di vista economico. Molti prodotti cinesi, per esempio... Lui pensava alla Cina, no? Pensava alla Cina, Chicco. Molti prodotti cinesi fanno sì che i consumatori italiani possano comprare della roba importante a dei prezzi bassissimi. Ma comunque, insomma... Questo dibattito... economico, infatti, hai visto? Ci troviamo con filiere intere produttive che saltano per aria. Il risultato è questo. C'est la vie, capito Chico? C'est la vie. È straordinario, vabbè, insomma. Comunque, sta di fatto che, vedete, sarà vera o non vera la notizia, sarà minacciata o non minacciata. La questione è Trump, dai, inutile negare, Massimo, è che c'è lì uno, c'è questo qui con la zazzerona bionda che fa paura a tutti, sono tutti a prendergli le misure, a capire questo si sveglia, cosa fa domani. Sì, ma è una questione rossiccio. Ancora una volta estetica, non razionale, non intelligente. L'abbiamo attaccato sul muro che ha costruito Obama e prima di lui aveva cominciato a costruirlo Clinton. Ma io non lo so, ogni cosa che fa quest'uomo è una roba terrificante. Poi se vai a verificare la notizia, perché ogni tanto bisognerebbe persino verificare le notizie, scopri che sta facendo esattamente cose che hanno fatto anche poi, altri. Poi vedi Chicco, arrivano i messaggi. Quanta carne da bovini alimentati con grani transgenici ci vorrebbero mollare senza ormoni? Ma che cosa dicono? Ma questo qua non sa di che cosa parla. E che ne so, sai. Secondo te come sono alimentati i bovini italiani? Lo dico io. Soia e mais che è tutta di importazione ed è tutta transgenica. Quindi proibiamo il mais transgenico in Italia, la soia transgenica in Italia che non si può coltivare. L'80% del mais o della soia consumata in Italia è importato da paesi come gli Stati Uniti che è transgenico. Punto. Quindi diciamo solo sciocchezze seguendo delle cose che abbiamo sentito di cui non sappiamo niente. E quindi ti immagini una bella costatona italiana transgenica, di fatto, seguendo il ragionamento di questo ascoltatore. Il transgenico non è chimico, capisci? Sì, ma a me lo dici. Ma è difficile da fare alle 6:30 di mattina, alle 7:45. Mi è venuta fame. Oppure potremmo diventare tutti vegani, potrebbe essere questa la soluzione. Così, no, per carità. Ma dai, così chiudiamo il problema delle importazioni della carne. Della carne, no? Questa è la soluzione, Massimo. Non ci ho pensato. Fate una bel tutto. Ma c'era un motivo se non ci avevi pensato fino a che è una puttanata. Dice. Esatto. Hai detto tu, però. Titolo di domani della verità. Titolo di domani della verità. Diventiamo tutti vegani e la mettiamo in quel posto a Trump. No, non penso che la vedrai. No, vabbè, niente, va bene. Allora andiamo al traffico, accontentiamoci così. Brum brum brum, c'è il traffico, Milan. Faircam Air & Ocean, spedizioni mare aereo in mani sicure e pratiche doganali risolte. Faircam.com vi presenta. Comunque ho fatto una compilation con tutte le canzoni iniziali di 24 Mattino. Una figata pazzesca. Ciao! Quando penso al governo italiano mi viene in mente quel film, non so se ve lo ricordate, La Zona Morta. Metteteli a lavorare a pane e acqua in mezzo alla strada, a pulire tutte le strade, sti pezzi di merda, di spacciatori. Io non voglio fare l'investigatore, ma è evidente che Grillo ha una paura terribile che io diventi il segretario del Partito Democratico, perché se questa cosa avvenisse noi recupereremmo moltissimi voti da loro e loro avrebbero un atteggiamento diverso rispetto a noi. Questo è Emiliano, che intanto con le nuove norme passate alla Camera non si sarebbe potuto candidare, nuove norme su magistrati in politica. Però devo dire, siamo con Massimo De Manzoni, con direttore della Verità, e con Chicco Testa, siamo in una fase politica, secondo me, di una noia mortale, cioè i grillini espulsi, le campagne sui giornali che rispolverano. Quando non si sa cosa fare si rispolverano un po' di campagne sugli stipendi, vitalizi. No, Berlusconi questo. Che va dalla Merkel e dice il leader sono io, cioè è proprio tutto un visto e già visto, non lo so. Chicco Testa, che cosa mi vuoi dire? No, questa digressione di Emiliano è fantastica, diciamo, questa di Emiliano. Intendo, non so, mi pare il 4-5% dei voti. È stato battuto anche nella sezione in cui era iscritto lui a Bari. No? Vabbè, ma lui dice che quando poi voteranno i cittadini italiani si ribalterà tutto. Vedremo. Intanto a Taranto succede questa cosa, no? Sì. Che il magistrato, sì, che titolare dell'inchiesta sull'Ilva, sì, no? In pensione, però, in pensione, adesso. In pensione, adesso è andato in pensione. Pensione, sì. No, però è stato il titolare. Sì. E in quanto titolare di questa inchiesta aveva messo sotto inchiesta anche l'attuale sindaco. Sì, si candida adesso. Si candida. Adesso si candida lui a fare il sindaco di Taranto. Beh, però in pensione, però in pensione almeno. No, ma consegniamo il paese ai magistrati e noi siamo a qualcos'altro facciamo prima. Comunque, arrestateci tutti, dai, Rino, arrestateci tutti. Sera, una persona importante che posso anche citare, sì, si chiama Francesco De Gregori, sì, che ho incontrato in un ristorante romano. Capito che le frequentazioni di Chico Tè. Cosa ci ha detto Francesco De Gregori? E che ha detto? No? Poi ci siamo fumati una sigaretta fuori dal locale. E allora si parlava così, appunto, come dici tu, della situazione attuale. Eccetera. E cosa dice? E mi ha detto: caro Chicco, rimpiangeremo questi giorni come gli ultimi giorni felici, perché dopo che avremo le prossime elezioni e ci sarà, sì, un Parlamento composto da 7-8 forze politiche, sì, che hanno passato il tempo ad odiarsi e ad insultarsi, mm-hmm, e dovranno inevitabilmente, se vogliamo avere un governo, trovare un accordo tra di loro. Non lo troveranno. Sarà veramente... No, ma è chiaro, ma questa legge elettorale, se è detto, è un disastro. Però, Massimo, qual è la notizia politica? Aiutaci in questo momento in cui, sì, il PD sceglie il segretario, Berlusconi cerca di rimettersi in campo, i grillini sicuramente si danno da fare, sono la forza considerata più in emergenza, cioè stanno emergendo. Cosa sta succedendo? Cosa bolle in pentola? Bolle in pentola proprio, un magma distinto appunto con la pentola che bolle è esattamente anche la metafora di quello che sta succedendo. Appunto, ogni tanto si sentono dei borbottii, ma in questo momento è francamente come dici tu. Ma secondo te ha ragione De Gregori? Sono gli ultimi giorni di Francesco De Gregori? Beh, non lo so. Siamo sul Titanic, ti piace? Francamente, poi il rischio di fare i nostalgici e dire sempre che quello che verrà è peggio di quello che c'è stato è un rischio che c'è. Certo, però che scusami, se non si fa... No, è troppo di sinistra De Gregori, non lo appoggerà mai, è troppo di sinistra. Fatemi dire una cosa. Sì. Se noi guardiamo la storia degli ultimi 20-25 anni, purtroppo quel detto che dice che al peggio non c'è mai fine, in un qualche modo è vero, perché siamo passati da una situazione all'altra sempre più difficile, sempre più complicata, e abbiamo continuato a farci del male in maniera tremenda. Sì. La situazione prima era molto semplificata, ma anche perché il mondo era diviso in due come una mela spaccata, e stavi o di qui o di là. Non è che tutti i paesi, voglio dire, comunque gli altri paesi, bene o male, un governo lo elegge, c'erano dei sistemi democratici di un certo tipo, non c'è l'odio politico. Sì. La faziosità e lo scontro continuo che c'è in Italia, cioè noi siamo in una situazione veramente particolare. Sì, quello sì. Però insomma, con questa legge elettorale si sa, è un mezzo disastro. Dai, rischiamo veramente di avere un Parlamento dove nessuno. Ma poi addirittura il peggio del peggio: uno può vincere la Camera e un altro al Senato. Cioè, Massimo, questa sarebbe la situazione proprio più disastrosa. Infatti, se non si fa una legge elettorale. Il problema sarà veramente grosso, questo non c'è ombra di dubbi. Il problema vero è che parlano di tutto, ma della legge elettorale avete sentito parlare? No, non parlano tanto. Però, signori, con Chicco Testa e Massimo De Manzoni, io voglio proseguire quella rubrica che abbiamo iniziato questa settimana e nella quale voi ospiti mi dovete aiutare tantissimo, perché io devo dipanarmi un po' in mezzo a queste frasi un po' sibilline a volte. La rubrica è Le metafore di Bersani, signori. Per me la metafora riesce fatta bene a far capire con immediatezza un concetto anche magari non semplice a volte a tutti quanti. Ecco. Allora, ogni giorno, ogni tanto proponiamo una metafora di Bersani e voi dovete cercare di aiutarmi a capire. Io sono un po' gnucco, si sa, gnucco. La metafora di oggi. Per quel che riguarda me, io non succhio l'osso e neanche il bastone. Però quella... Non mi turo il naso e soprattutto non lascio il no alla destra. Vabbè, l'ultima. Però non succhio l'osso e neanche il bastone. Allora, visto che i bastoni non si succhiano, gli ossi ogni tanto sì, so, del pollo. Però vorrei, Chicco, cosa... immagino che siano queste cose un po' contadine, no? Cioè, succhiare l'osso vuol dire proprio... è arrivato alla fine, il bastone, non ha lasciato più niente, poi peggiorare la situazione, se non c'è l'osso devi picchiare il bastone, peggio, cioè è la disperazione, l'immagine quando uno è alla frutta, io direi alla frutta, no? Massimo De Manzoni, cosa vuol dire? Questa è la metafora di Bersani, cosa voleva dire secondo te, Massimo? Probabilmente sì, questo, ma cosa ha detto subito dopo il bastone? Non lascerò il no, non mi turo il naso, che comunque non lascia il no, cioè non capisco come stiano tutte in vicino queste cose. Gli può però restare una possibilità, quella di mordersi le mani. Mordersi le mani, esatto. O baciarsi i gomiti. Sì, esatto. No, non lo so. E va bene, mi avete aiutato così oggi con la metafora di Bersani. Non è che ne esco un po' più convinto rispetto a come ne sono entrato. Non è facile. Lo so, succhiare il bastone, ragazzi, effettivamente. Comunque, signori, c'è Chicco Testa che ci deve fare un bel pronostico per Napoli-Juventus, che finirà con il traditore Higuain magari a fare un gol al San Paolo. Come finirà, caro Chicco? 1-1 è lì, pareggino e scudetto sesto consecutivo alla Juve. Che ti vuoi fare? Secondo te, Massimo, quanti ne vinceranno consecutivamente? Poi dopo con Donnarumma, ovviamente. Arriveranno a 10? Ma visti come si stanno muovendo le altre squadre, molto probabile. Sì, poi se dobbiamo puntare sul Chievo per cercare di arginarli, se dobbiamo puntare sul tuo Chievo, siamo che, che però è una piccola Juve, nel suo piccolo, ragazzi, perché l'organizzazione è una piccola per quello Juve. Che è per quello che fa, va bene. O gestione abbastanza oculata, altri obiettivi, però li raggiunge sempre. Il tuo Chievo, esatto. Allora ringrazio Massimo De Manzoni, condirettore della Verità, e Chicco Testa. Un abbraccio, alla prossima. È arrivato Milanalino. Legge, commenta, spoglia, con battute piccanti. È arrivato Alino Milan, l'arrotino della comunicazione. 24 mattino. Signori, in questo venerdì siamo pronti, è finito anche marzo, pazzerello, arriva aprile, dolce dormire da domani. Allora, ci siamo nella conclusione della settimana, non ricordo se 204esima, per l'abolizione delle province. Siamo qui con Peter Bescapè in regia, con Lorenzo Nespoli in redazione, pronti alla rassegna stampa di 24 mattino. Andiamo! Mamma mia, per fortuna che è San Venerdì! Come detto, venerdì 31 marzo. Allora, c'è da dire che la maggior parte dei quotidiani oggi apre su questo allarme lanciato dal Wall Street Journal, che non è una notizia concreta, ma è un qualcosa che secondo tutti l'amministrazione americana starebbe pensando, cioè mettere un muro di dazi. E allora, un muro USA per 90 prodotti dell'Unione Europea è il titolo di apertura del Sole 24 Ore, mentre il Corriere della Sera, l'Italia contro i dazi di Trump. Repubblica, Trump, la sfida dei dazi ai marchi simbolo europei. La Stampa, la sfida dei dazi accende il duello tra Europa e Stati Uniti. Avvenire, muro alle merci dell'Unione Europea. E poi ancora, Il Messaggero, Trump dichiara guerra alla Vespa. Il presidente americano pensa a una tassa del 100% su 98 prodotti simboli di tutta Europa. Vedete, pensa, cioè non è niente di certo, però il nuovo muro di Trump è il titolo dell'Unità. Mentre Vespaio, così il manifesto con una foto dell'amministrazione americana, quasi tutti i giornali dunque su questo, anche se in realtà non è certo che ci sarà questa svolta minacciata dal Wall Street Journal, però la vedremo. Allora, questi sono alcuni dei titoli di apertura. Voglio partire però da questa notizia di cronaca che è anch'essa presente su tutti i giornali e che in qualche modo inquieta, perché leggere di una banda di jihadisti sventata ed erano pronti a colpire a Venezia mettendo una bomba al ponte di Rialto, immaginate le conseguenze, inquieta moltissimo. Una bomba a Rialto va in paradiso, il piano sventato dei jihadisti a Venezia. Poi, per carità, non c'è mai da sminuire questi allarmi. Però, ecco, si può capire e cercare di intuire quale fosse il grado di operatività di questa cellula. Dal momento che a casa loro non è stato trovato esplosivo, non sono state trovate armi se non qualche arma giocattolo, e però questo non deve appunto sminuire. Le intercettazioni intanto: con Venezia guadagni subito il paradiso per quanti miscredenti ci sono qua, mettere una bomba a Rialto. Questo è il commento del giovane kosovaro all'attentato di Londra dello scorso 22 marzo, un commento che ha convinto gli inquirenti che era giunto il momento di intervenire. E così i reparti speciali di polizia e carabinieri hanno fatto irruzione in due piccoli appartamenti del centro storico della città lagunare, a circa 200 metri da Piazza San Marco, e hanno smantellato quella che definiscono una cellula jihadista operativa. Queste le parole del procuratore aggiunto Adelchi d'Ippolito. In carcere tre kosovari, 25, 26, 28 anni. Un quarto kosovaro, 17enne, è stato fermato. Facevano i camerieri nei vari locali veneziani e nel contempo sono state eseguite altre 10 perquisizioni, 2 a Mestre e Treviso, ritenute collegate allo stesso gruppo di giovani islamici provenienti da Pristina e dintorni. Il blitz è giunto dopo 10 mesi di indagine da parte di un pool investigativo. Seguite soprattutto le attività del 28enne Aryan Babaji, considerato la guida spirituale del gruppo. 7 indagati per terrorismo, proselitismo, addestramento, arruolamento che possono essere ritenuti funzionali agli scopi perseguiti dall'ISIS. Questo almeno racconta Andrea Pasqualetto sul Corriere della Sera a pagina 18, ma i titoli sono un po' ovunque simili. Facciamo esplodere Rialto e ci guadagniamo il paradiso. Ecco la cellula jihadista di Venezia. Erano attivissimi su internet, fa sapere Fabio Poletti sulla Stampa. Progettavano attentati in Italia. Ora, ripeto, capire il livello di preparazione, questo non si sa. Anche Repubblica, i 4 jihadisti venuti dal Kosovo, colpite Venezia e sarà il paradiso. Questo almeno dicevano. Invece voglio andare, a proposito di questioni giudiziarie, a una assoluzione. Ricordate la vicenda di Trani. Mi ha sempre colpito molto il fatto che a Trani si potesse indagare nei confronti delle agenzie di rating accusate nel 2012 di aver manipolato il mercato con conseguenze politiche anche sull'Italia, la caduta di Berlusconi, eccetera. Qual è il risultato di tutto questo? Tutti assolti. Su questa inchiesta effettivamente molti giornali avevano posto dei dubbi. L'Italia declassata dalle agenzie di rating, tutti assolti a Trani. Erano imputati manager e analisti delle agenzie di rating. Nel 2012 non fu manipolato il mercato. Virginia Piccolillo, leggo la cronaca alla pagina 13 del Corriere della Sera. Tutti assolti, ha sorpreso anche le difese la sentenza del Tribunale di Trani che ha prosciolto dall'accusa di manipolazione del mercato 5 tra analisti e manager di Standard & Poor's e la stessa società. Assolto anche l'ex capo del rating sovrano della sede londinese di Fitch. Respinte dunque tutte le richieste del PM Michele Ruggero. Michele Ruggero che tra l'altro ha ieri indossato, attendendo il verdetto, una cravatta tricolore, e infatti lui, che è stato anche un po' criticato da alcuni giornali a dire ma l'iniziativa della procura di Trani sembra un po' strampalata, viene intervistato da Fabrizio Caccia, A pagina 13 del Corriere della Sera, dopo la sentenza di assoluzione, il PM con la cravatta tricolore dice: «Perché vi meravigliate? Sono i colori che portano il cuore, i colori della nostra bandiera che esprimono fedeltà alla Repubblica. La cravatta l'ho avuta in regalo, non dico da chi, comunque da nessun movimento e nessun partito, e non escludo di indossarla ancora in futuro». Però durante il processo non l'ho mai messa, proprio per evitare strumentalizzazioni. L'ho messa il giorno della sentenza, quando ormai la battaglia era finita. Senta, dottor Ruggero, dopo più di 2 anni di un processo anche costoso, dopo aver chiamato a testimoniare Monti, Tremonti, Padoan, arriviamo qui, tutti assolti. «Non posso rimproverarmi nulla», risponde il PM. «Ho servito, come sempre, la ricerca della trasparenza e della verità, la mia missione di magistrato. E che è compiuta. La battaglia è stata durissima. È stato solo contro tutti, ma in effetti avevo di fronte almeno 10 avvocati bravi e preparati. Da loro ho imparato molto, alla fine li ho ringraziati e comunque per me è stata una crescita». Attenzione però, il giudice nella sentenza ha stabilito che la manipolazione del mercato, a seguito del doppio declassamento, ci fu, il fatto sussiste, anche se non ci fu dolo, ma colpa, e la manipolazione colposa dà comunque diritto al ristoro in sede civile alle parti offese. Per non parlerei perciò di partita o vinta o persa, occorre sempre aspettare le sentenze definitive. Cioè vuol dire che ricorrerà in appello? Non è detto. Sono innanzitutto un promotore di giustizia prima che un pubblico accusatore. E va bene, questo il PM Ruggero. Tutti hanno notato anche la cravatta tricolore. A proposito di processi, rischia invece il processo, l'accusa è abuso, truffa e diffamazione. E appropriazione indebita il vescovo di Mazara del Vallo, Monsignor Mogavero, destinatario di un avvio di conclusione delle indagini, racconta La Stampa con Rino Giacalone. Per la verità anche a Trapani mette insieme 2 vicende, anche alla diocesi di Trapani il vescovo è indagato. Indagati 2 vescovi, Trapani e Mazara, accuse di abuso, truffa, diffamazione. Nel mirino un conto segreto e una chiesa costata troppo. Ecco, per Monsignor Mogavero, che è considerato il monsignore dei migranti, che tra l'altro collabora con Il Fatto Quotidiano, e infatti il giornale la mette anche così, insomma, il monsignore di Travaglio è accusato di appropriazione indebita, truffa e abuso. La questione è una costruzione di una chiesa costruita, secondo l'accusa, con fondi della Regione Sicilia e della CEI per un totale di 2.700.000 euro. La procura di Marsala, ascoltando i funzionari della CEI, ha appreso che la Conferenza dei Vescovi finanziò quell'opera senza sapere nulla dell'altro contributo. Se avessimo saputo dell'altro contributo avremmo ridotto il finanziamento di 500.000 euro. Non ho nulla da dire, sto cercando di capire la reazione di Monsignor Mogavero, ma insomma, anche lui, per lui, qualche guaio giudiziario. Ma siamo all'articolo che mi fa pensare della giornata e riguarda un'intervista che Fabio Rossi sul Messaggero fa al commissario per il debito del comune di Roma. Si chiama Silvia Scozzese, è stata anche assessore. Attenzione, cari cittadini di Roma, sappiate che succede nella pubblica amministrazione, in un'azienda privata sarebbe difficile che accadesse questo. Guardate il titolo: è ignoto il 60% dei creditori del comune di Roma. Ignoto. Il 60%, il commissario per il debito, che dice che a Roma ci troviamo con un debito finanziario da pagare di circa 9 miliardi e con un debito commerciale, ossia nei confronti dei privati, di circa 3,1 miliardi. Aggiunge: per il residuo debito non finanziario il lavoro è in fieri, anche perché dagli atti a disposizione risulta non possibile individuare il 60% dei creditori. Tanto che il messaggero chiede: scusi, com'è possibile che ancora non sappiate chi sono i vostri creditori? è il Comune di Roma che rappresenta a noi quali sono i debiti da pagare, quindi non c'è un rapporto diretto tra la gestione commissariale e i singoli creditori. Quindi a Roma il commissario per il debito, che deve gestire il debito di Roma, non sa e a lei risulta ignoto il 60% di coloro che devono ricevere soldi. Ma signora, ma che fa? Metta le mani sul volante, signora, ma andiamo, ma per cortesia. State ascoltando un programma offerto da Centrosoftware.com, il miglior ERP per il successo della tua impresa. Alessandro Milan è il furba John dell'informazione. Allora, alle 7:35 minuti siamo in diretta qui a 24 mattino. Questo è lo spazio dedicato alla rassegna stampa con la notizia con cui aprono tutti i giornali. Intanto va fatta una premessa. È una notizia vera? Certa? No, è una previsione che nasce da un articolo del Wall Street Journal. Cioè il Wall Street Journal ha scritto che l'amministrazione americana sta pensando di porre dei dazi del 100% sui prodotti europei. Questo come sorta di ritorsione legate a una annosa disputa che si trascina dagli anni 80 addirittura del secolo scorso, vale a dire l'importazione di carne americana in Europa. Secondo gli ultimi accordi, l'Unione Europea si era impegnata a importare 45 milioni di tonnellate di carne americana senza ormoni, prodotta apposta per l'Unione Europea, e secondo l'America questa Unione Europea non ha mai mantenuto questa promessa e quindi c'è ora la minaccia di ritorsioni. Ma siamo alla minaccia, però per i giornali italiani è così, è la guerra dei dazi del 100% sui prodotti europei. Marco Valsani racconta sul Sole 24 Ore, pagina 3, l'amministrazione Trump ha un caso di rappresaglia commerciale pronto se vorrà alzare il suo muro al libero scambio. Non è contro la Cina, non è contro il Messico, è nei confronti dell'Unione Europea sull'annosa disputa della carne americana agli ormoni. Il rappresentante commerciale dell'amministrazione, Robert Lighthizer, di fatto il plenipotenziario per l'interscambio, non è stato ancora formalmente confermato dal Congresso, ma i preparativi per fargli trovare sulla scrivania dazi punitivi del 100% contro prodotti simbolo del vecchio continente, dai formaggi francesi agli italianissimi scooter Vespa, sono completati, con l'accusa che la carne di manzo made in Stati Uniti viene tuttora discriminata in Europa rinnegando passati compromessi. Con questa scusa l'ufficio ha ora in mano una vera lista nera di 90 prodotti di punta europei da colpire ai confini statunitensi. Manca solo la decisione finale. Dunque la decisione finale non c'è. Ripeto, è iniziata nel 96, come racconta Marco Valsagna, questa guerra strisciante sulla carne, con il ricorso di Washington contro un divieto da parte di Bruxelles, poi nel 2008 sanzioni autorizzate dalla WTO che quasi azzerarono a 15 milioni di esportazioni agricole dell'Unione Europea pari a 130 milioni, dazi sospesi l'anno successivo perché Obama siglò un accordo con l'Unione Europea che prevedeva in cambio l'export annuale in Europa fino a 50.000 tonnellate di carne senza ormoni, ed è qui che i produttori americani sostengono che Bruxelles non ha aperto abbastanza i suoi mercati. E da qui ho l'ultima minaccia di ritorsioni. Quindi c'è anche da dire che in questa notizia, che secondo La Verità, per esempio, prima avevamo il condirettore Massimo Nemanzoni, Francesco Borgonovo la mette addirittura così, la grande fandonia dei dazi al 100% imposti da Trump ai prodotti italiani. Non c'è nulla d'imposto, ma il frullatore mediatico è impazzito. È solo un retroscena del Wall Street Journal su fantomatiche misure protezionistiche del presidente. Al momento non c'è la notizia, però la minaccia c'è. Trump progetta anche il muro dei dazi, è il titolo per esempio di Avvenire. Tra l'altro è interessante che su Repubblica Paolo Griseri intervisti Oscar Farinetti, cioè il leader di Italy, che dice: una guerra dei dazi farebbe più vittime di una terza guerra mondiale, per l'Italia sarebbe un disastro. Ma sulla questione della carne, duole dirlo, ha ragione Trump, così dice Farinetti. L'errore è proprio dei politici europei. Gli Stati Uniti si erano impegnati a produrre carne senza ormoni in fattorie dedicate, creando allevamenti apposta per la carne che doveva attraversare l'oceano, ma una volta prodotta quella carne non è stata acquistata dall'Europa. E tenete conto che 45.000 tonnellate sono lo 0,6% del consumo europeo annuo, pochissimo. La questione però interessa poco ai paesi del nord Europa ed è l'Italia che vive di esportazioni alimentari, che ha nel food made in Italy uno dei suoi punti di forza commerciali. Quindi sarebbe necessario che i diplomatici italiani del Ministero degli Esteri chiedessero a Bruxelles di rispettare gli impegni presi. E dunque Oscar Farinetti dà ragione a Trump, almeno sul punto, all'amministrazione americana, ma anche Luigi Scordamaglia, presidente di Federalimentari, come scrive il Sole 24 Ore, denuncia l'inerzia della Commissione Europea. La questione è nota da mesi. A Bruxelles avevamo chiesto di trovare una soluzione che soddisfacesse gli Stati Uniti, concedendo una quota di esportazione esclusiva di carne bovina di alta qualità, senza ormoni, come ristoro dopo la condanna inflittaci dal WTO. Invece il contingente di 45.000 tonnellate è stato di fatto esaurito da paesi come Australia, Brasile e Argentina, che hanno prezzi più economici. Insomma, con una piccola modifica alla normativa europea si chiudeva la partita, ma Bruxelles non si è mossa. Quindi, ecco, prima di pensare di fare la guerra ai protezionisti americani, Trump, studiamola bene questa storia, è una storia che data molti anni e sulla quale, dal punto di vista strettamente tecnico, gli Stati Uniti, dicono anche Oscar Farinetti, dice Federalimentare, hanno ragione. E quindi, vabbè, però, questo c'è sui giornali italiani, vi segnalo questi articoli. La politica italiana invece, la notizia del giorno, forse la sospensione dei 42 deputati del Movimento 5 Stelle dopo il parapiglia e l'ingresso anche in maniera sicuramente muscolare nell'ufficio di presenza della Camera dopo che c'è stata la protesta sui vitalizi, sanzionati per le contestazioni alla Camera sulle pensioni dei parlamentari 42 deputati. C'è un colloquio di Paolo Conti con Laura Boldrini, presidente della Camera, a pagina 11 del Corriere della Sera. Presidente della Camera Boldrini, che afferma di essere scossa da molti resoconti televisivi. Ho sentito raccontare come normale episodio di vita parlamentare l'irruzione nell'ufficio di presidenza Montecitorio. In realtà siamo di fronte a una serie di episodi gravissimi. Un gesto che non si può giustificare in alcun modo, fatto con modo intimidatorio. Sono stati feriti 4 commessi. Un episodio del genere non è mai accaduto nella storia della nostra Repubblica. Uno dei parlamentari del Movimento 5 Stelle è perfino entrato nella sala della riunione e ho dovuto intimargli di uscire immediatamente. Insomma, chi si presenta come paladino della Costituzione, delle regole, della democrazia non può gridarlo nelle piazze e poi agire sistematicamente contro l'istituzione parlamentare. È una contraddizione plateale, visto che il Movimento 5 Stelle non perde occasione per screditare la Camera dei Deputati democraticamente eletta. Così Laura Boldrini al Corriere della Sera. Nella stessa pagina c'è un'intervista a Roberto Fico del Movimento 5 Stelle che dice: sono molto orgoglioso del mio gruppo che continua a lottare senza arrendersi. Andiamo avanti come sempre, non ci sarà alcuna richiesta di incontro con le istituzioni e abbiamo chiesto di abolire i vitalizi e se ciò non accade lo faremo quando saremo al governo noi, anche retroattivamente. E dunque Roberto Fico non arretra di un passo. Questa è la notizia politica del giorno, perché cos'è? Dobbiamo commentare la notizia politica che è tornato Berlusconi da Angela Merkel. 20 minuti di incontro, Berlusconi che assicura: cara Angela, non ho mai detto la famosa battuta, quella della culona. Vabbè, siamo capiti, in realtà non l'ho mai detta, è stata un'invenzione giornalistica. È un Berlusconi che cerca di rilanciarsi all'incontro a La Valletta, Malta, per ritornare un po' sulla scena politica, e dicendo proprio questo ad Angela Merkel ho spiegato la vera preoccupazione è un governo 5 Stelle, io sono il vero moderato su cui puntare, Silvio Berlusconi. Ma abbiamo da Berlusconi a Meazza, che in fondo insomma tra uno stadio e un presidente o ex presidente o presidente chi lo sa o chi lo farà non lo so, di una squadra di calcio che gioca al Meazza, il passo è breve, eccoci qua Mauro. Ma caro Alessandro, intanto caro auguri Alessandro. Per domenica. Ti ringrazio molto, ti faccio anch'io tanti auguri. Noi veramente grazie. Giochiamo lunedì. Quindi, auguri per lunedì. Quindi è un po', sei un po' fallito questo, è un po' fallita questa tua buffata. Invece tanti tanti cari auguri per la vostra domenica pomeriggio. Tanto più che oggi tu leggendo avidamente come devi fare le pagine di finanza, bravissimo. Scoprirai appunto qual è il patrimonio reale, la consistenza reale del signor Yong Hong Lee, che io sicuramente ho pronunciato malissimo, ma sì, purtroppo sul cinese non sono preparato. Tu sai chi è Yong Hong Lee? Guarda, diciamo nessuno lo sa benissimo, però dovrebbe essere colui che compra il Milan. Quanti euro ha? 5, 6, 7? No, guarda, leggi avidamente le pagine di finanza e mercati, troverai, oltre parlando di cose più serie, altre cose, tipo la trattativa all'Italia, che non va per niente bene, la trattativa per il salvataggio di Alitalia, ma c'è anche appunto un servizio sulla consistenza patrimoniale del signor, non saprei, forse ha bisogno anche dei tuoi due urini, però bene. Dovresti farli girare dal Lussemburgo, ma insomma poi ci sono dettagli che scopriremo più avanti, così come stiamo per scoprire, perché come sai, l'hai ricordato anche, finisce così il mese di marzo, comincia aprile, è che come dice il grande Eliot è il mese più crudele e infatti sarà il mese della manovrina, manovrina di cui anticipiamo qualcosa, misure pare di stimolo al finanziamento per le imprese che dovrebbero essere contenute appunto in questa manovrina d'aprile. E te ne parla oggi Carmine Fotina, c'è l'ipotesi anche del direct lending. Sai cos'è il direct lending? L'atterraggio, no, senza va bene, scalo. Si tratta del prestito in forma diretta non solo dalle banche, ma anche ad esempio da parte di fondi di credito, di assicurazioni, insomma leggi solo 24 ore, santa pazienza, e così ti informi. Oh, poi scusami, un passaggio importante qui, Radio Fisco, c'è la circolare di chiarimento del Ministero dell'Economia e Ministero dello Sviluppo Economico per iper e maxi ammortamenti. Tu so che non mi segui su questo terreno, ma sappi che sono in pratica sconti fiscali per investimenti in macchinari, in beni nuovi, ecco, come si fa a utilizzarli? Te lo spieghiamo oggi su Norme e Tributi, che tu leggerai come sempre. Come religiosamente. Sempre. Bravo, anche perché così potrai vedere che il famoso voucher, anche se non è proprio un voucher, per la babysitter, sai, 600 euro che la mamma può chiedere nei primi mesi di vita, ecco, quello lì non è bloccato, quello lì non è bloccato, te lo spiega Matteo Prioschi in dettaglio proprio nelle pagine di Norme e Tributi, leggi questa volta sia religiosamente ma anche un po' avidamente, mi immagino, da parte di chi attende questo voucher, ma potremmo anche chiamarlo bonus, ma potremmo anche chiamarlo sostegno. Oh, ricordati che domani è aprile, ma soprattutto che domani è sabato. Certo. E allora non dormire, con il Sole 24 Ore troverai Plus, cioè il settimanale dedicato proprio alla finanza e al risparmio. Vorrei segnalare una notizia di lunga gittata, in qualche modo. Ieri c'è stata un'asta importante per i titoli del nostro debito pubblico e è andato bene il BTP a 50 anni. Che dici? La scadenza è nel 2067. Ottimo. Poi vuoi che proviamo a prendere qualcosa anche noi sul secondario? Quanto puoi mettere tu? Guarda, io conto di non esserci. Conti di non esserci? Cos'hai da fare nel 2067? Vabbè, non hai ancora il diario pronto. Allora, guarda, fermiamoci qui. Buona domenica, cari ascoltatori. Tanti cari auguri, Alessandro, per la tua squadra e come sempre. Traffico! Faircam Distribution, la soluzione adatta per la spedizione dei vostri prodotti in Italia e in Europa. Faircam.com vi presenta Alessandro Milan, il gattaro dell'informazione. Ora non esageriamo, non esageriamo. Ho una gattina zen, si sa, per chi non lo sa adesso lo sa, o magari non gliene frega niente, però gattaro, gattaro proprio, proprio no. Allora, c'è, a proposito di Brexit, procedimento iniziato ufficialmente ieri, un'intervista di Enrico Franceschini su Repubblica al leader del UKIP, Nigel Farage, colui che più si è speso per la Brexit e che ora dice finalmente abbiamo sospinto la Gran Bretagna verso la libertà. Trovate questa intervista a pagina 4 di Repubblica. Starà ad altri giudicare se sono il padre della Brexit, esordisce Farage, ma penso di aver più che fatto la mia parte e non è finita la nostra missione solo alla sua infanzia. Sono sollevato, felice, profondamente soddisfatto. Noi partigiani della Brexit abbiamo finalmente sospinto la Gran Bretagna verso questo giorno di libertà e indipendenza. È un momento storico, mi auguro che incoraggi altri paesi in tutta Europa a battersi per l'indipendenza dell'Unione Europea. Dice Farage, rispetto alla Premier Theresa May, avrei agito diversamente attivando l'articolo 50 che mette in moto la procedura di secessione il giorno dopo il referendum. Comunque va bene così. Ma l'Unione Europea è proprio un mostro per lei, Farage? Abbiamo fatto campagna per lasciare l'Unione politica, ma siamo assolutamente a favore di continuare la cooperazione commerciale. Quello che non accettiamo è l'imposizione di leggi dall'esterno. Così Nigel Farage parla. Rimanendo su Repubblica, Aldo Fontanarosa, invece, cambiando argomento, parla con Fabio Fazio, che ha annunciato in un tweet o ha minacciato velatamente di poter lasciare la RAI. E si toglie qualche sassolino o sassolone Fabio Fazio dicendo: la RAI colpita al cuore dai politici in questi mesi, attacchi mai visti. Uno che chiede le dimissioni dell'amministratore delegato, un altro che dà i voti al telegiornale, e poi la storia del tetto agli stipendi, così si mortifica chi rappresenta un patrimonio per l'azienda. Insomma, da parte di Fabio Fazio c'è una critica alla questione di chi pone il tetto dei 240.000. Se si potesse regolamentare il mercato per decreto, dice Fabio Fazio, sarebbe più utile farlo per i generi di prima necessità. Il tema per me è un altro: dire che le aziende pubbliche vanno calmierate con un tetto agli stipendi significa sancire il primato del settore privato, significa affermare che il settore pubblico deve rinunciare alle eccellenze professionali del mercato. Io penso da sempre l'esatto contrario. I costi della politica non mi scandalizzano se la politica è valida e operosa. E ancora sul tetto agli stipendi, il ricambio è fondamentale, come far crescere nuovi talenti. Pensi però se nella nazionale si decidesse di far entrare la primavera al posto della prima squadra. E comunque i ricambi non si possono fare per decreto. Descrivo un paradosso. La RAI ha una regola. Se trovo un genio della letteratura o dell'informatica, non lo posso ingaggiare nella mia redazione. Se non ha mai lavorato per l'azienda, funziona così: non sono consentite le prime utilizzazioni, salvo ricevere una deroga dell'amministratore delegato. Difficile così favorire la scoperta di nuovi talenti. Poi Fazio dice anche che sarà produttore in pratica di se stesso, lavorerà fino a maggio in Rai e poi si vedrà, e non avrei nessuna difficoltà a lavorare anche con Mediaset. Così Fabio Fazio, dunque, si appresta a lasciare la Rai, chi lo sa? Questo lo faccio vedere anche in diretta sulla mia pagina Facebook, il profilo. Siamo in diretta in questo venerdì 31 marzo in questo momento. Oh, la vicenda Latri continua, la cronaca. Ora è il giudice che ha scarcerato la persona accusata, una delle persone accusate di avere ucciso Emanuele Morganti, sotto il mirino dei riflettori della polemica. Il giudice si chiama Chiara Riva, è un magistrato del Tribunale di Roma che ha disposto la scarcerazione il giorno stesso dell'omicidio di uno dei due presunti assassini, Emanuele, che è stato trovato con un bel po' di droga, consumo di gruppo, era stato il motivo per cui non è stato convalidato l'arresto neanche ai domiciliari. Scarcerazione lampo e poi aggredì Emanuele, questo secondo l'accusa. c'è da dire che c'è una spericolata intervista di Luigino De Magistris, sindaco di Napoli, che parla sul Fatto Quotidiano di Napoli Juventus in questo weekend, e dice tra l'altro che Higuain è come Salvini, che per De Magistris è l'insulto politicamente peggiore. Salvini è tra i peggiori politici di oggi e secondo me Higuain è come lui, ma ovviamente è il tifoso che parla. Dice anche Luigi De Magistris: verrà accolto da una marea di fischi Higuain. Sarà questa la cosa più interessante, perché insomma ormai il campionato è finito. Come il San Paolo accoglierà Higuain? Mentre eccola qua, la carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Barbara Berti, siamo sul Giorno, ci sono una serie di donne anche intelligenti, attrici, Scarlett Johansson, Kristen Stewart, che si tagliano i capelli a Hollywood per rimarcare la loro differenza dalla pettinatura di Melania Trump. Le donne che si tagliano i capelli anti-Melania. Ma chi se ne frega!